Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Asili, strutture per disabili ed anziani presto potranno installare sistemi di videosorveglianza, questo quanto previsto dalla legge in votazione alla Camera, che chiarisce anche che in caso di denuncia o presunta violenza le immagini potranno essere visionate solo dal pubblico ministero o dagli organi di pubblica sicurezza. Ma cosa ne pensano i genitori dei bambini? Allora, io penso che le telecamere devono starci perché i bambini devono essere tutelati e noi genitori dobbiamo stare tranquilli perché abbiamo sentito e abbiamo visto quello che è successo e noi abbiamo l'obbligo e il diritto di tutelare i nostri figli. No, sono d'accordissimo per tutti questi casi che stanno succedendo. Assolutamente, sia per il personale che per i bambini. Così si fa più chiarezza sul vero comportamento che avviene. Lei sarebbe disposta ad autotassarsi per il sistema di videosorveglianza? Sì, ottima. Ottima, direi una cosa giusta. Tendiamo a trattamenti sui minori, sugli anziani, sì. Sono Voglio togliere un'illusione subito alle mamme. Non è che comunque la legge che è stata approvata ieri alla Camera, questo servizio era precedente, preveda che da casa voi con lo smartphone tenete sott'occhio o piezze core e lo vedete minuto per minuto, levatelo dalla testa. Non è questo. Comunque oggi di questo parliamo. Questa legge, che è una legge bipartisan, i relatori sono un parlamentare di Forza Italia e uno del Partito Democratico, quindi una legge che vogliono tutti, è stata votata con ampia maggioranza, si è astenuto il Movimento 5 Stelle, era fortemente critica la sinistra italiana, per motivi che poi vedremo e analizzeremo nel corso di questa trasmissione. Passerà adesso la legge al Senato, una legge ampia di cui si è naturalmente giornalisticamente parlato solo di quella che è la cosa che è più clamorosa e più facile da raccontare. Si metteranno le telecamere di sorveglianza nei luoghi in cui ci sono persone deboli e categorie deboli sottoposte comunque all'attenzione di operatori. In realtà la legge prevede anche degli interventi per tenere e monitorare quella che è la tenuta delle persone che si occupano di persone deboli, perché è un lavoro logorante. È una legge che mi sembra che non preveda risorse però per farlo, non so come si possa fare poi un piano civile di attenzione sulla qualità e sulla professionalità degli operatori se non ci sono soldi. Comunque sia, vi faccio una domanda secca: state più tranquilli questa mattina sapendo ci sarà una telecamera di sorveglianza nell'asilo, nella scuola, nel luogo di cura, nel luogo dove sta vostro nonno, nel luogo dove sta vostro figlio disabile? Questo vi dà sicurezza, anche se ancora non sappiamo bene quanto questa telecamera possa in realtà essere accesa tutto il periodo in cui la persona è ospitata, se questa telecamera occupa tutti gli spazi possibili in cui la persona possa transitare. Chi vedrà poi ore e ore e ore, poi immaginate la telecamera accesa senza se accesa sempre, quindi accesa tutto il giorno, e immaginate guardare soltanto, non so, 8, 9, 10 ore di registrazione. Chi paga chi deve guardare la registrazione? E se non la guardi tutta, come fa avere la sicurezza che in quell'attimo, quel secondo, quel minuto, quella mezz'ora in cui non si è guardato possa accadere qualcosa? 800 24 0024. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Schiaffi, calci, pugni, pizzicotti, addirittura la testa sbattuta sul banco. Continui maltrattamenti a cui quattro maestre di un asilo di Mileto in provincia di Vibo Valentia avrebbero sottoposto uno dei bambini loro affidati. Minacce, urla, schiaffi contro 15 bambini d'età compresa tra un anno e 3 anni e mezzo di un asilo privato. Siamo a Casarile, tra le province di Milano e Pavia, ad inchiodare le maestre e le telecamere installate dagli investigatori dopo le prime segnalazioni dei genitori dei piccoli. Un clima di terrore e disagio, come testimoniano le immagini. Per la direttrice e la sua assistente sono scattati gli arresti domiciliari. La duplice ordinanza di custodia cautelare racconta di violenze fisiche e psicologiche. I bambini erano soggetti ad un evidente stato di soggezione. Un fatto è chiaro: tutte le volte che operatori di polizia o dei carabinieri su mandato di un magistrato mettono delle telecamere di sorveglianza, viene sempre qualcosa fuori che accade di terribile. Le immagini sono sempre le stesse, sembra quasi un format, quei format internazionali che rimangono uguali, cambiano soltanto i protagonisti. Sono sempre le stesse scene, sempre le stesse persone, sia un ospizio, sia un luogo per disabili, sia una scuola, sia un asilo. Si vede sempre le persone a cui è affidata l'incolumità, ma non soltanto l'incolumità, anche l'abilitazione, anche l'evoluzione di persone che non hanno autosufficienza, in realtà compiono un'operazione di mortificazione, di violenza, sdegno totale nei confronti di queste categorie deboli. Vi dico subito il mio pensiero, se no giocherei sporco. Non credo che la telecamera di sorveglianza vada oltre una proposta totalmente demagogica che serva a placare il furore di popolo e nascondere sotto il tappeto quella che in realtà è la polvere che nessuno vuol vedere, la poca qualificazione, le gare a ribasso per cercare operatori a cui affidare le categorie deboli, un controllo non sufficientemente attento, costante, capillare di figure come appunto le maestre di scuola materna e asilo che hanno un lavoro logorante, averci a che fare tutti i giorni per tante ore con i figli degli altri, non sono nemmeno i tuoi, e molte volte è faticosissimo, significa che bisogna avere anche qualcuno che ti controlla quanto la tua tenuta psichica, quanto il rischio del burnout, cioè che tu a un certo punto vai fuori di testa, non controlli più te stesso, è un livello così alto di insoddisfazione rispetto al lavoro che fai che puoi avere delle reazioni che fanno parte comunque dello spettro delle possibilità umane, ma che sono nefaste, deleterie nei confronti dei bambini. Questo è un discorso culturale da affrontare con strumenti tecnici, con strumenti precisi, corretti, reali, che hanno a che fare con delle prassi, con dei protocolli conosciuti. Certo, è tutto più difficile, è più difficile promettere questo si farà, è più facile dire mettiamo una telecamera, e pongo di fronte alla telecamera tutte le mie possibili perplessità. Siete convinti che non esistano angoli bui in un fabbricato in cui una persona che comunque sbatte la testa sul muro a bambini, anziani o disabili non possa farlo lo stesso? Siete convinti che ci sia la totale sicurezza che ogni istante di quello che accade in quel luogo può essere registrato e monitorato? E chi farà questo? E chi pagherà le persone che faranno questo? Mattia, buongiorno. Io sono perfettamente d'accordo con lei, volevo solo aggiungere alcune cose nel fatto che molto spesso questi abusi che vengono fatti o su persone disabili o minori o anziani avviene nelle strutture private, ma non per ideologia che il pubblico è meglio, ma nel settore pubblico non c'è un ruolo gerarchico nel quale se uno denuncia rischia di perdere il lavoro, quindi nel mio piccolo caso io ho sempre preferito strutture pubbliche dove ogni singolo insegnante o persona che cura è più libera di poter denunciare. Detto questo, sulle telecamere, perché il vero problema è che in realtà se ci sono gli abusi c'è una sorta di sommesso e limaccioso mormorio che lo sanno, che c'è la maestra o l'insegnante o l'educatore che va fuori di testa, lo sanno tutti, ma se ne stanno un po' zitti. Anche perché se c'è la paura di essere licenziati è una questione complicata. Le faccio un esempio invece sulle telecamere. A Milano c'è un ristorante in Paolo Sarti che avrà circa 45 telecamere. Se lei va all'ingresso vede questo schermo con 40 che riporta tutte le telecamere. Ecco, quello lì non mi dà sicurezza andare a mangiare in un posto del genere, perché avere una telecamera su ogni tavolo vuol dire che probabilmente il luogo non è sicuro. E chiudo dicendo che nei paesi più sicuri come la Svizzera ci sono molte meno telecamere rispetto al nostro. Grazie Mattia. Mario, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Senta, io premetto che non conosco la legge, neanche la proposta, e ho sentito adesso. Ma adesso ne parliamo, fra un istante ne parliamo, solo i commenti a caldo, sì, proprio sì, di pancia. Ma dire, ma io non credo che ci sarà una persona che guarda le telecamere 24 ore al giorno. Le telecamere, le immagini verranno guardate in caso di ematomi, lividi o sintomi di violenza. Non penso che. Non è neanche logico che una persona stia 24 ore di fronte alla telecamera. Sì. Io so che di solito quando ci sono questi esempi qua che c'è una denuncia, poi mettono le telecamere, i carabinieri nascoste, non le vedi, e quindi e viene colto poi se si perpetra l'atto criminoso. Una telecamera sempre accesa fa sì che comunque chi procura gli ematomi si guardi bene a non procurarli di fronte alla telecamera accesa, sa che è accesa. Questa è la domanda che mi faccio io. Mauro, buongiorno. Maro è caduto in questo momento, ora sentiamo Andrea Rossetti. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, sono Gianluca. Il professor Andrea Rossetti è professore di filosofia del diritto all'Università di Milano Bicocca, insegna anche informatica giuridica. Andrea, tu per noi hai dato un'occhiata alla legge che devo dire che è più complessa rispetto al titolo approvate le telecamere. Sì, sì, la legge prevede vari aspetti, insomma, quello delle telecamere è quello ovviamente che valsa più all'evidenza, peraltro è anche l'aspetto più discusso all'interno, o meglio nella proposta di legge, insomma, nella parte che introduce la legge, però effettivamente questo testo prevede anche un maggiore controllo su coloro che vengono assunti all'interno di strutture in cui si ha a che fare per molto tempo con persone più deboli, quindi sia vecchi sia i bambini più giovani. Si sottolinea in più punti in realtà il fatto appunto che è necessaria una formazione permanente, un controllo permanente sul fatto che la persona assunta mantenga le qualità necessarie per effettivamente svolgere un buon lavoro. Sì, però è una dichiarazione di intenti, no? Dice ci sono tanti soldi per fare questa formazione. Esatto. No, i soldi non ci sono per fare la formazione e ovviamente un personale qualificato costa più di personale non qualificato e se, come tu dicevi prima, no, le aste sono al ribasso, è chiaro che con un'asta al ribasso io non posso pensare davvero di fornire personale che sia tutto completamente qualificato, insomma, no? Qui noi in Bicocca produciamo in realtà studenti che hanno percorsi formativi di questo genere, però è chiaro che un laureato che è probabilmente più in grado di fare un lavoro di questo genere rispetto a una persona che non ha una formazione specifica, è chiaro che costa di più, insomma. Ecco, dal punto di vista proprio dell'aspetto giuridico, la legge dice che comunque sia andrà negoziato con i lavoratori il fatto che abbiano telecamere di sorveglianza. Questo è un aspetto da considerare. È chiaro che di fronte all'interesse superiore della tranquillità dei familiari non esisterà la possibilità di dire no, non le voglio per rispettare lo statuto dei lavoratori. Però anche questo è un passaggio comunque va considerato. È un passaggio che va considerato e tenendo anche conto del fatto che effettivamente la modifica dell'articolo 4 dello statuto dei lavoratori effettivamente permette un maggiore controllo sull'attività del lavoratore, a patto che però appunto ci sia un accordo con i sindacati. Anche qui l'accordo si può ottenere ovviamente, ma è di tipo economico, no? Fondamentalmente, nel senso che io magari posso anche essere disposto ad essere controllato in maniera più puntuale il mio lavoro, però questo, che è comunque un fattore di stress, deve essere ricompensato in qualche modo, e il modo più facile per farlo ovviamente è quello economico. Quindi una persona che si volontariamente si sottopone ad essere controllata durante tutto l'arco della giornata lavorativa, allora posto che sia giuridicamente possibile, cosa che hai dubbio, però ovviamente deve essere compensata anche per questa cosa. E comunque sarà qualcosa che andrà discusso, non è così scontato. E anche sul fatto che le mamme pensino che con lo smartphone, come accade nelle telecamere di sorveglianza per gli antifurti a casa, possano vedere il bambino tutto il giorno, smontiamo subito anche questa illusione. Anzi, questo è esplicitamente vietato dalla legge, nel senso che la legge, o meglio l'introduzione, insomma, no, la parte che fa da cappello alla legge, specifica appunto che gli strumenti usati dovranno crittografare l'informazione all'interno del device stesso, cioè della telecamera stessa, e peraltro la chiave per leggere poi il video cifrato sarà in possesso di colui che ha fornito le telecamere di sicurezza, fondamentalmente, insomma. Quindi appunto anche qui non ci sarà modo di accedere a questi dati se non ovviamente dietro la presentazione di denuncia, quindi dietro il permesso di un pubblico Sentiamo Laura. Laura, buongiorno. Buongiorno. Volevo soltanto raccontarvi un episodio che ho visto nell'asilo nido di mia figlia terzogenita, non nella sua classe, uscendo tra l'altro fuori orario, per cui in un momento in cui non ero gradita all'asilo, la classe di fianco a quella di mia figlia aveva la tendina leggermente scostata e io passando ho visto e mi sono fermata a guardare una delle due educatrici che spostava questi bambini di una classe di bebè, quindi bambini sotto i 12 mesi, non deambulanti, li spostava tirandoli per le braccia con una incuria che io non userei per dei sacchi di patate. Cioè li trascinava per terra. Li trascinava. Io, boom, e li spostava, ne doveva spostare 27, 24 e quindi li trascinava in questo modo. Io mi sono fermata a guardare, l'altra educatrice era la vice direttrice della struttura, una struttura comunale del comune di Milano. Ora non sapevo che cosa fare e non ho fatto niente, vergognandomene. Loro erano in due, io ero da sola, non c'era una palese violenza e io qualunque cosa avessi fatto mi sarebbe caduta una denuncia per calunnia, ma se fosse stata mia figlia sarei intervenuta perché non avrei permesso che venisse trattata in questo modo. Allora, lei è la prova di quello che tendo a sostenere io, ma posso essere anche contraddetto. Non è un comportamento che provoca lividi ai bambini, quindi quei bambini avrebbero avuto lividi, ma sono trattati come sacchi di patate. Le persone che ha visto lei sono persone che in realtà avrebbero un mandato per comportarsi in maniera diversa. Nulla che spieghiamo al mondo che i bambini non si spostano come sacchi di patate. Secondo lei, con la telecamera di sorveglianza avrebbero comunque cambiato il loro atteggiamento interiore verso quei bambini. Sì, magari non l'avrebbero spostati così davanti alla telecamera, ma magari dopo un mese, sapendo che nessuno guarderà quelle registrazioni, a meno che i bambini non abbiano segni, continueranno a farlo lentamente. Si fiderebbe lo stesso, le faccio un'altra domanda, no, di lasciare suo figlio in quelle maestre se avesse una telecamera davanti? No, risponda a questa assolutamente, domanda. Assolutamente, non le lascerei con quelle maestre. Infatti la bambina è stata, ha cambiato asilo, perché in un asilo dove un atteggiamento simile viene tollerato, io non sono tranquilla di lasciare un bambino così piccolo. Ma allora è drastica la soluzione. Se mettete le telecamere e non cambiate gli operatori, non cambierà assolutamente nulla. Ci fermiamo un istante, poi dopo riprendiamo, potete anche contraddire. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i tassi a zero e la volatilità di borsa, i rischi e le nuove opportunità di investimento. Cosa cercano davvero i risparmiatori? Il 18 novembre alle 18 partecipa a Investire Informati Live, l'evento di Radio 24 che si terrà presso la sede del Sole 24 Ore in via Monterosa a Milano. Troverai tutte le risposte insieme a Deborah Rosciani e agli esperti della rubrica Investire Informati. Prenota la tua partecipazione su radio24.it. 18 novembre, ore 18. Più informazione, meno sorprese. Melog, cronache meridiane. Un'educatrice agli arresti domiciliari per maltrattamenti aggravati, altre due sospese dal loro incarico. È successo all'asilo Il Nido nel Parco, in via Francesco Scaduto, a Roma. Le telecamere installate dai carabinieri avrebbero infatti ripreso i bambini strattonati, trascinati di peso per un braccio, legati ai passeggini o costretti con la forza a ingerire cibo nonostante i pianti, e poi schiaffi, scossoni e insulti ogni volta che disobbedivano. Mio figlio la mattina era restio, non voleva lasciarmi, non voleva entrare in classe, però da qui a pensare che ci fossero poi delle violenze o comunque delle cattiverie nei confronti dei bambini, questo no, non potevo immaginarlo. Le tre educatrici si occupavano della classe dei medi, ossia i bambini tra i 12 e i 24 mesi di età. I genitori adesso... Potrei intrattenervi per ore facendovi ascoltare i servizi dei telegiornali, dei giornali radio, su quello che è accaduto, che sta accadendo in Italia. È un problema oggettivo, non si può fare finta che sono mele marce o casi isolati, e nemmeno si può fare finta che accadano soltanto in luoghi marginali. Spessissimo si legge: era un fiore all'occhiello, una struttura modello, una persona inappuntabile, un santo uomo o delle sante donne, e poi si vede che succedono le stesse cose. Perché? Perché quando si va al risparmio, quando non si sceglie operatori qualificati, perché la qualificazione costa, la formazione costa, perché il lavoro è logorante, è usurante, è un lavoro che non tutti possono fare e non tutti possono fare per periodi lunghi. La telecamera diventa quindi il toccasana, l'esempio emotivo che rende tranquilli tutti. È vero, mi hanno segnalato che in Inghilterra ci sono i Mammy's Club, che hanno la Narzi Cam, che è delle telecamere a cui la famiglia viene fornita la password, e le mamme in questo asilo modello bellissimo, carino, dove tutti si vogliono bene, sembra il paese dei Teletubbies, possono vedere anche quello che succede. Ma sono dei casi isolati, sono degli esperimenti privati. E come io, se a casa mia improvvisamente mi facessi un asilo nido, lo farei più bello possibile, farei pagare un sacco di soldi, direi: se volete guardate, e dare la password della telecamera. Non può riguardare tutte le strutture pubbliche e private, non può riguardare le migliaia e migliaia di famiglie che lasciano dei figli in situazioni del genere. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Io volevo provare a dare un punto, grazie per aver colto questa problematica che oggi c'è, che stiamo vivendo, di averla data la possibilità di parlarne. Allora, io cambio leggermente il punto di vista, provo a cambiare leggermente il punto di vista. Dicevo che sono perfettamente d'accordo con questo tipo di legge, che tutela sicuramente gli utenti, o meglio, se tutti i problemi che lei ha menzionato si riescono a trovare una soluzione, questo potrebbe aiutare una migliore qualità, diciamo, di servizio rispetto all'utenza. Io ritengo, io parlo da educatore, sono un educatore, e adesso voglio dare un punto di vista diverso. Allora, io ritengo che questa formulazione delle telecamere o qualcosa di alternativo può essere addirittura a vantaggio degli educatori che si definiscono tali. Comprendo tutte le difficoltà che ci sono quando uno pratica questo lavoro da anni, comprendo tutto quanto, però essere educatori è una delle professioni più complicate, forse meno pagate, più complicate che ci sia, che ci possa essere. Questo però nessuno lo nega, siamo d'accordo. A vantaggio, chiaro, dici io opero bene, almeno per me non è un problema se ho o non ho la telecamera davanti. Ma ripeto, non è che c'è una telecamera davanti, che c'è sempre qualcuno che guarda al monitoraggio istante per istante quello che succede. Bisogna dirlo, se no la gente pensa, metti la telecamera, quindi, come vedo i messaggi che mi arrivano, non succederà più niente, che tutti potranno guardare dentro. No, si interviene soltanto quando un magistrato si muove su una denuncia, si riguarderà tutto il pregresso. È una cosa un po' complicata, non è che la telecamera dà tranquillità. Sono come quelle telecamere cinesi che uno compra per 10 euro, che se le applica davanti a casa, davanti al negozio, si accende un led rosso con una pila dentro, ma non sono collegate a nulla, dice servono soltanto per deterrente. Andrea, buongiorno. Formazione. Pronto, buongiorno, sì. Pronto, buongiorno Nicoletti. È un infermiere lei? È un infermiere, Andrea, no? Sbaglio. Sì, sì. La chiamavo proprio perché il mio intervento era praticamente sulla scia dell'educatore che mi ha preceduto. Io auspico sinceramente, oltre che, come si può dire, le telecamere non risolvono il problema, le telecamere possono essere viste una volta che c'è stato il problema, però io auspico il posizionamento di telecamere, perché così eventualmente si capisce anche i carichi di lavoro, le nostre professioni, che sono dette ausiliarie, praticamente hanno quotidianamente. Però vede, Andrea, mi scusi se anche questa è un'altra illusione. Chi è che dovrebbe guardare la telecamera con uno spirito filantropico? Vediamo Andrea quanto fatica, quanto bravo quando lavora. Chi è che si dovrebbe porre questo problema? No, glielo dico perché mi piace sempre riportare la realtà di fronte ai voli illusori di cui spesso anch'io sono vittima. È verissimo, però avendo centrato perfettamente il tema, capito, con questa trasmissione, a mio parere erano state viscerate tutti gli aspetti, e glielo dico da operatore, sinceramente l'unico aspetto che mi pareva che dove potevo dare un contributo era questo. No, no, ma lo capisco, lei dice così, almeno vi rendete conto qual è il nostro lavoro. Che infatti, nessuno cioè la gente non si rende conto, rendo conto perché conosco un po' il problema, è un lavoro usurante a livelli che nemmeno ci si immagina, che sa che fare molte volte con soggetti non collaborativi, con grossissimi problemi. Bisogna operare anche su un piano promiscuo, fisico, poi non sempre le strutture ci sono, non sempre ci sono i mezzi, non sempre ci sono le attrezzature necessarie, bisogna inventarsi, e mi rendo conto che questo è difficilissimo, ma questo fa sì che comunque la telecamera, ancora una volta, non è, diciamo, la soluzione del problema, secondo me. Elena, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Anch'io sono d'accordo di non mettere telecamere perché non lo trovo una soluzione, ma sono un po' pulirsi la coscienza. Io chiederei di investire molti più soldi sul personale, ridurre l'orario di lavoro del personale, che comunque è soggetto sempre a uno stress altissimo, come ha detto lei, spesso sono persone che devono tenere i figli degli altri, ingestibili a volte, perché non sempre sono bambini tranquilli e bravi, quindi più professionisti, meno orario di lavoro, pensione anticipata, perché non si può pensare che una maestra a 60 anni possa ancora avere la pazienza o l'energia per stare dietro a dei bambini. Stessa cosa per gli operatori che comunque lavorano con persone anziane, a volte comunque non sono pienamente lucide, quindi sicuramente investire invece sulle telecamere e sulla formazione, e poi a cadenze regolari comunque anche un sostegno psicologico, che secondo me è importantissimo. Questa è la cosa giusta, persone. Cosa che nessuno dice. Ma esiste un sostegno psicologico per le maestre d'asilo? Cioè, perché sono tutte così stressate? E del loro stress ci se ne rende conto? C'è un controllo reciproco? C'è una figura professionale specifica che osserva sul nascere i sintomi del burnout, che è, diciamo, questa sorta di esplosione che poi, di fronte alla quale è difficile poi mantenere un atteggiamento controllato? Andrea Rossetti, buongiorno. Cioè, buongiorno, nuovamente a te la parola. No, nel senso che capisci che intanto abbiamo in qualche maniera ridimensionato il potere deterrente della telecamera. Sì, sì, sicuramente questa è la cosa più importante da fare, appunto, perché comunque ciò che ripreso da una telecamera non è peraltro privo di ambiguità. Il problema è anche questo, bisogna tenere conto anche in alcuni casi quello che si vede può essere interpretato in una maniera completamente diversa da quello che in realtà è accaduto. Mi rifaccio al primo esempio, allora, quella signora che ha visto i bambini tirati per le braccia, ma siamo certi che non stessero giocando, che quello non fosse un gioco che l'educatrice faceva tutte le volte per spostare i bambini da una parte all'altra? Perché io ricordo che i figli di miei amici spesso li ho tirati per le braccia anche quando ero molto piccolo sul pavimento per farli giocare. I miei figli me li tiravo, quindi, me li tiravo sul pavimento, no, io e mia moglie ci tiravamo come giocassimo a piastrelle, figure. Non dobbiamo credere, no, che un'immagine rappresenti necessariamente quello che è realmente avvenuto in una determinata situazione. E poi immagina tutto questo portato in tribunale con un contenzioso. Esatto, perché e questo è il punto, io lo porto in tribunale, accuso l'educatore, dopo si scopre anche che l'educatore magari non ha fatto niente, però intanto quello è finito sul giornale, quello probabilmente lavora in quel contesto non lo troverà più perché è passato per quello che maltrattava i bambini. Certo, quindi bisogna stare veramente molto attenti a pensare che le tecnologie possano insegnarci, possono permetterci di interpretare meglio quello che fanno gli esseri umani, perché in alcuni casi non è così, insomma, semplicemente, anzi ci espone a rischi di, appunto, cattive interpretazioni di quelle che sono le nostre intenzioni. Ma fermiamoci un istante, solo un istante, riprendiamo fra un minuto. Meno, stufe anzi. I caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Mi dice il professor Chiappini, c'è una carrellata di telefonate, falle subito. Giovanni, velocissimo. Sì, velocissimo. Allora, sono parzialmente d'accordo sul fatto di mettere le telecamere, perché è vero che estingue il comportamento fisico, però potrebbe virare verso una violenza psicologica. Quindi mi trovo d'accordo per quanto riguarda gli asili, mentre invece per quanto riguarda l'ipotesi della scuola elementare, secondo me non è una buona idea. Perfetto, Daniele. Allora, sì, salve. Allora, io sono d'accordo con l'educatore che ha parlato prima sull'installazione delle telecamere, ma non come deterrente, anche a tutela. Io sono il genitore di un bambino autistico, quindi diciamo vedo il problema anche dall'altra parte. Come un aiuto anche a tutelare i lavoratori stessi. In una delle tante osservazioni fatte da mio figlio in una sala di attesa, parlando con altri genitori, uscì fuori una storia che mi ha colpito molto. Un educatore nel giardino della scuola, mentre provava a contenere un bambino autistico, che forse non tutti sanno cosa vuol dire contenere un bambino autistico. Sì, già la parola contenere è sbagliata, non si contiene un autistico in una crisi oppositiva, contenerlo in una maniera proprio sbagliata, lo sai, sì, meglio okay. Di me. Sì, cioè tenerlo fermo è sbagliato. Evitare che si facesse male o facesse male ad altre persone. Quindi in quel momento lì, fuori dalla strada, una signora ha visto la scena, ha chiamato il 113, l'educatore è stato denunciato, c'è la causa, adesso io non so la causa come sta andando, come è andata, perché parliamo di una storia raccontata un anno e mezzo fa. Sì, quell'educatore probabilmente ha perso lavoro e non troverà lavoro. Sì, però se mi permette, momento... Daniele, permette, visto che abbiamo un problema comune, qua apriamo un altro problema. Un bambino autistico non può essere affidato a una persona che non abbia gli strumenti tecnici per gestire l'autismo. Adesso è una persona specializzata, non basta l'educatore preso dalle liste di una cooperativa fornita dal municipio, non è quello. Quando c'è un problema del genere e può accadere, deve sapere esattamente cosa fare, deve prevenire l'atteggiamento positivo, tenerlo fermo quando mai già sta sclerando è la maniera sbagliata, e vederlo non è un bello spettacolo. Sono spettacoli che ci vediamo a casa, siamo visti a casa tutti, è un po' più complesso, e non credo che nemmeno in questo caso sia la telecamera lo strumento che risolva il problema. Claudia. Sì, buongiorno. Io penso che fondamentale sia evitare ogni danno psicologico ai bambini. Il fatto di inserire eccessivamente la telecamera non eviterà certo ai bambini di avere un trauma col quale magari poi dovranno confrontarsi tutta la vita. Per cui io sono per telecamere, porte aperte, qualunque cosa che possa far sì che gli insegnanti o gli educatori siano veramente pubblici ufficiali come sono e che hanno il dovere di tutelare i minori, perché non si... Lei è un'insegnante, Claudia? Sì, sono un'insegnante. Ecco, però da insegnante sarà venuta a conoscenza chissà quante volte della collega o del collega un po' sclerati. Ecco, lei pensa che in quelle situazioni averci una telecamera davanti cambierebbe l'atteggiamento interiore proprio, generale, sì, il clima? Io parto dal principio che la tutela prioritaria sia quella dei minori. Ma proprio di questo parlo io. E gli adulti se hanno problemi così hanno mille possibilità, perché c'è la possibilità di mettersi in malattia e farsi curare o di avere un momento di rigenerazione. Cioè, secondo me il discorso del collega che sclera, che può capitare a tutti, a me è capitato. Io ho avuto colleghi che sono andati in cura perché non ce la facevano più. Quelli che però invece vanno avanti nell'atteggiamento e diventano criminali sono quelli che non ammettono probabilmente avere questo problema. A maggior ragione che ci siano i controlli con le telecamere, porte aperte, quello che si vuole, perché questi bambini, che gliela ridà quella serenità che hanno perduto? Sì, cioè una volta serve soltanto, diciamo, a assicurare alla giustizia il colpevole. Chiudiamo con Giulio, poi sentiamo la conclusione di Rossetti. Giulio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io sono medico, lavoro in una residenza sanitaria per anziani e trovo che questa legge sia assurda per vari motivi. E ci spiega velocemente perché. Sintetico. Uno, allora, le telecamere dove le mettiamo? Nella sala in comune? Di ogni singola stanza, all'interno del bagno? Cosa si fa? Controlliamo tutta l'RSA, è una roba folle, andrebbero 100-200 camere per ogni singola RSA con costi esorbitanti. In bagno poi non si può mettere per questioni di privacy. Allora, se voglio picchiare un anziano, io lo porto in bagno, lo meno, lo riempio di botte e lo porto fuori tutto. E lo porto fuori. Uno, quindi totale assurdità. Due, gli operatori che sono più spesso a contatto con gli anziani, cioè gli operatori ASA e OS, che sono quelli che, per dirla con schiettezza, puliscono la cacca di queste povere persone, fanno un lavoro veramente usurante per un tozzo di pane, guadagnano malapena 1000 euro al mese. Allora, loro non lavorano per una mission, per curare il paziente nel pieno del... lavorano per portare a casa uno stipendio. Come si può pretendere che queste persone, io non giustifico assolutamente, certo, ma la capisco, perciò, abbiano dei riguardi particolari quando sono i primi a essere trattati da schifo dalla direzione, due, dai parenti che pretendono veramente l'impossibile. E anche qua, mettere le telecamere, io quante volte nella struttura ho visto anziani con lividi che si erano fatti da soli, magari stando contro la carrozzina o girandosi contro il letto. Sono persone fragili. Giulio, lei ha già messo a punto tre punti fondamentali, ma da esperto proprio della materia conosce. Andrea Rossetti, un commento a quello che dice Giulio, ma abbiamo un minuto e mezzo. Ma direi finale, appunto, la tecnologia non è mai foria di sicurezza in nessun caso. La tecnologia può essere di ausilio, ma niente può sostituire in realtà la formazione e l'educazione di coloro che operano in contesti come questo, e più in generale in tutti i contesti. Mettere telecamere ovunque in realtà non porta una maggiore sicurezza, porta semplicemente a un maggiore controllo che non ci dà necessariamente una vita più tranquilla o più sicura. Questa è la cosa da tenere sempre in mente in qualunque caso, e in un caso come questo in particolare. Altra cosa, come ha detto il medico, in effetti sono dei posti particolari, come appunto il bagno, in cui non potrà mai essere messa una telecamera. Quindi lasciare comunque una potenziale sala delle torture non lascia e non dà assolutamente la sicurezza che si aspettano di avere le famiglie e i genitori da questa legge che impugna il fatto. Finalmente le telecamere finiranno le violenze. No, le telecamere non faranno finire le violenze. Magari la parte della legge di cui si è parlato meno, quella che lavora sulla formazione, ha messo poi trovi i fondi per essere finanziata, forse è l'aspetto più interessante per andare avanti in un cammino di civiltà. Alla prossima.